Radio 24 Reportage. La rabbia dei tassisti e la sfida del mercato, di Teresa Trillò. La protesta dei tassisti è esplosa all'improvviso nei giorni scorsi, scatenata da un emendamento al decreto mille proroghe firmato dai senatori del PD Linda Lanzillotta e Roberto Concacic. Una correzione che sospende fino a fine anno le norme restrittive sul noleggio auto con conducente, in attesa del varo del piano trasporto, un piano atteso dal 2009. Nelle grandi città come Roma, i tassisti hanno bloccato il servizio reclamando il ritiro dell'emendamento e regole chiare per il settore, minacciato dagli abusivi. Non sono mancati manifestazioni e scontri. Sono 7 anni che aspettiamo le regole e la Lanzillotta di nascosto ha infilato questo emendamento che cancella le uniche regole che ci stanno. E quindi noi ci siamo fermati perché sennò andiamo, cioè veramente già stiamo per strada, finiamo per strada sotto i ponti. Con il pretesto di introdurre nuove tecnologie si vuole far saltare la legge quadro del settore per far saltare la differenza tra due servizi come i taxi e gli NCC e annullare quindi il servizio pubblico. Taxi e servizio auto noleggio con conducente sono due mondi regolati da norme diverse. Il tassista offre un servizio pubblico definito da una licenza comunale che stabilisce turni, riposi e ferie. Il tassista non può rifiutare una corsa e il costo della prestazione è determinato dal tassametro. Il noleggio con conducente è un servizio a chiamata, regolamentato da una concessione comunale e il prezzo del servizio è contrattato con il cliente. Gli autisti devono stazionare in una sede o rimessa in attesa delle chiamate e, svolto il servizio, devono tornare in sede. Licenze e concessioni possono essere rivendute. A Roma il costo di una licenza taxi oscilla tra i 120.000 e i 150.000 euro. La concessione noleggio con conducente si rivende nelle grandi città tra 80.000 e 100.000 euro. Taxi e noleggio con conducente hanno un nemico comune, Uber, la multinazionale di San Francisco che organizza con una app il servizio trasporto auto privato. Un mercato in evoluzione che aspetta nuove regole da anni. Una mossa l'ha fatta Linda Lanzillotta. Questo è un emendamento che è stato presentato da vari gruppi della maggioranza, concordato col relatore a cui il governo ha dato il parere favorevole perché nel decreto c'era la proroga del termine per fare, nel decreto legge originario del governo, per fare questo famoso piano e la norma che collegava fino al 2010 in modo esplicito il termine per la redazione del piano alla sospensione dell'obbligo per gli NCC di ritornare nell'autorimessa e di non poter stazionare nella città di destinazione, era stata confermata con atti amministrativi che quindi erano soggetti a sentenze del TAR contraddittorie, quindi si voleva una certezza del diritto sul punto e quindi io l'ho presentato d'accordo con tutti. Dopodiché questo ripristino di una situazione già precedente ha scatenato violente reazioni perché si riteneva che la cosa non era più attuale e poi il decreto Campacavallo si sarebbe prorogato per l'ennesima volta così come era stato fatto negli ultimi 8 anni. Io credo che al di là dell'emendamento questo ha avuto comunque l'effetto di accelerare l'adozione di una disciplina, di una regolamentazione che è ormai urgentissima, sia per dare certezze ai taxi, sia per consentire con delle regole chiare e trasparenti di lavorare a imprese che sono via via nate, perché noi non dimentichiamo che la situazione c'era nel 2010 e oggi è completamente diversa, ci sono gli NCC, c'è Uber, c'è il car sharing. Regole e certezze reclamate anche da tassisti e noleggio con conducenti. Uno dei nodi da sciogliere è il rientro in sede delle auto noleggiate con conducente alla fine del servizio per attendere una nuova chiamata. I tassisti chiedono che il noleggio con conducente eserciti il servizio nel comune di appartenenza e rientri in sede al termine della corsa perché altrimenti, sostengono, si annullano le differenze con i taxi che attendono in strada i clienti. Ma le nuove regole immaginate dai noleggio con conducente devono tener conto anche del progresso tecnologico, come spiega Mauro Ferri dell'Anitrav. Allora, le nuove regole intanto dovranno avere un punto fondamentale che è quello di fornire un servizio migliore all'utente, di fornire un servizio all'avanguardia tecnologica, perché ormai non si parla più del fax o del telefono fisso nell'ufficio, ma si parla di strumenti tecnologici avanzatissimi, quindi smartphone, iPad, PC, no? Chi più ne ha più ne metta. Dovrà andare verso la direzione dettata dai principi comunitari, perché non è possibile pensare che in questa Italia vengano a lavorare imprese dei stati membri dell'Unione Europea e poi quello di Velletri non può andare a lavorare a Roma. Questa è veramente follia. Il Ministero dei Trasporti ha deciso di mettere ordine nel settore. L'emendamento al decreto mille proroghe non è stato ritirato, come chiedevano i tassisti, perché i tempi per l'approvazione della legge erano stretti. Ma il ministro Graziano Del Rio ha convocato tutte le sigle sindacali dei tassisti per mettere a punto, entro 30 giorni, un decreto ministeriale che superi l'emendamento Lanzillotta e un piano di riordine del settore. La proposta è stata siglata da 21 sindacati, non da Federtaxi e UGL, perché, sostengono, l'intesa non risolve l'abusivismo, come spiega il segretario generale di UGL Taxi Alessandro Genovese. Non abbiamo firmato un'intesa al Ministero, innanzitutto perché siamo fortemente critici nella proposta fatta dal Ministro, che si impegna entro un mese a trovare una soluzione a un annoso problema che ormai dura da molti anni. Siamo fortemente critici anche perché eravamo impegnati in delle cause contro la multinazionale americana Uber, una già risolta nell'estate scorsa, dove siamo usciti, diciamo, vincenti, e contro Uber Black nei prossimi giorni andava in discussione, e con questo accordo e con questo emendamento rischiamo di far saltare una sentenza che avrebbe dato sicuramente giustizia ai tassisti e ai noleggiatori italiani. Unica CGIL è fra i firmatari al Ministero perché, spiega il segretario generale Nicola Di Giacobbe, serve una soluzione. Il tavolo, la soluzione non è penso, la deve trovare, che è una cosa diversa. Quindi sono preoccupato per l'impegno che abbiamo con questo tavolo, ma fiducioso nel fatto che dobbiamo trovare una soluzione. Perché preoccupato? Preoccupato perché da questo tavolo esce il futuro del trasporto pubblico non di linea, esce il futuro del servizio pubblico a un'utenza indifferenziata con tariffa amministrata. Da questo tavolo esce una risposta a quelle multinazionali che altro non sono che un caporalato elettronico. Quindi bisogna trovare il giusto punto di equilibrio tra servizio pubblico e concorrenza? Esatto, fare in modo che ci sia una concorrenza anche all'interno del servizio pubblico, e questa concorrenza viene fatta tra i tassisti, i noleggiatori, nel rispetto delle regole. Altra cosa è una concorrenza che viene da soggetti terzi e che hanno altri obiettivi, quelli di lucrare tra la domanda e l'offerta, ma non fare un servizio pubblico per tutti. Il lavoro al tavolo ministeriale non sarà semplice, dice Loreno Bittarelli, presidente di Uritaxi. Dipenderà solo dalla volontà delle rappresentanze delle categorie di taxi e noleggio con conducente di trovare un'intesa, perché se diciamo c'è questo problema è perché da 10 anni a questa parte i taxi e i noleggi non sono riusciti a trovare un'intesa equilibrata che delimiti l'operatività delle licenze da taxi e l'autorizzazione da noleggio e ne stabilisca le regole all'interno di questo ambito operativo. Questo non è potuto avvenire perché sia all'interno delle rappresentanze dei taxi sia all'interno delle rappresentanze del noleggio ci stanno delle ali estremiste. Oltre ai tassisti, al tavolo siedono anche rappresentanti del servizio auto noleggio con conducente, ma non Uber, che dopo le proteste invita il governo ad ascoltare anche la voce dei consumatori. Per i rappresentanti del noleggio auto con conducente, il punto delicato da affrontare è il rientro in sede alla fine del servizio, spiega Mauro Ferri. Questo è il terzo tavolo tecnico che iniziamo, che poi si sfascia in corso d'opera, perché c'è questo punto fermo dove loro dicono territorialità operativa. Loro pretendono che il noleggiatore di Linate operi esclusivamente all'interno del comune di Linate e pretendono che non vada nel comune di Milano dove invece c'è un grosso mercato. Ma tra l'altro quello che voglio dire, questo concetto di territorialità operativa potrebbe anche andare bene se le amministrazioni pubbliche locali e la legge in generale avesse come obiettivo la crescita. È fiducioso, sì. Si arriverà ad una soluzione questa volta? Guardi, si deve arrivare per forza alla soluzione, perché altrimenti qui si continua in questa battaglia infinita, e il governo deve prendere forza e coraggio di seguire sulla base di principi comunitari, costituzionali e di ragionevolezza, alla luce anche dell'evoluzione che c'è stata, e produrre una nuova normativa sia per i taxi che per il noleggio. Per capire come finirà bisognerà attendere almeno un mese, quando arriverà il decreto ministeriale. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.